Letture di Radio 24. Dalla Svezia arriva un nuovo esperimento per aumentare la produttività. La giornata lavorativa di 6 ore. L'esperimento arriverà a Göteborg, il secondo maggiore centro urbano della Svezia dopo la capitale Stoccolma. A far da cavie saranno i dipendenti del comune. Sarà un test in piena regola, con un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo, ciascuno costituito da un diverso dipartimento della pubblica amministrazione. Il primo avrà una giornata lavorativa ridotta a 6 ore. Il secondo proseguirà con le tradizionali 8 ore giornaliere. Il trattamento economico non subirà variazioni. Entrambi i gruppi riceveranno lo stesso stipendio che percepivano prima dell'esperimento, solo che uno dei due lavorerà di meno. Confronteremo i due gruppi alla fine del test e vedremo come differiscono. Ci auguriamo che i dipendenti che lavorano 6 ore chiedano meno giorni di malattia e vivano in condizioni di maggior benessere psicofisico, ha dichiarato il vice sindaco di Göteborg, Mats Pilem, in un'intervista al quotidiano svedese The Local. In ultima analisi, l'operazione aumenterebbe la produttività e lascerebbe più soldi nelle casse dello Stato svedese. Crediamo sia giunta l'ora di provarci sul serio, ha proseguito Pilem, riferendosi a un analogo esperimento condotto in passato nella remota cittadina settentrionale di Kiruna, ma mai trasformatosi in realtà. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Oliver Gay, Gli svedesi provano la giornata lavorativa di 6 ore, da Lookout del 5 maggio. Il ricercatore americano Lehman ha dimostrato che la curva dell'efficacia del lavoro cala nettamente all'inizio del pomeriggio, tra le 14 e le 16, anche degli individui che non hanno mangiato. Studi e ricerche recenti hanno dimostrato che la siesta fa bene all'azienda. Aumenta del 40% la creatività. 20 minuti a occhi chiusi portano, oltre a una crescita nell'apprendimento, anche a prestazioni intellettuali migliori perfino del 30%. C'è anche uno studio della NASA. Dormire 26 minuti a metà pomeriggio migliora del 34% le prestazioni dei piloti sottoposti al test. Avete ascoltato la lettura di un estratto dall'articolo di Giorgio Dell'Arti, Pennichella, dal Magazine 7 del 9 maggio. The way you sing unlocks my heart, just like a key, and brings you right back home to me. Letture di Radio 24. Sono 100.000 i sacerdoti che negli ultimi 50 anni hanno abbandonato l'abito talare e nella maggior parte dei casi l'hanno fatto per amore di una donna. Per molti anni le amanti dei preti, chiamate anche le rivali di Dio, hanno vissuto nella clandestinità. Oggi alcune di loro hanno deciso di uscire allo scoperto e si sono rivolte direttamente al Papa. Ma davvero il celibato favorisce il bene della Chiesa? Si domanda il teologo Vito Mancuso in un editoriale pubblicato sulla Repubblica. Chissà come risponderà il Papa alla lettera indirizzatagli da 26 donne che, così si sono presentate, stanno vivendo, hanno vissuto o vorrebbero vivere una relazione d'amore con un sacerdote di cui sono innamorate. Ignorarla non è da lui. Telefonare a ogni singola firmataria è troppo macchinoso. Penso non abbia altra strada che stendere a sua volta uno scritto. Avremo così la prima epistola de celibato presbiterorum indirizzata da un papa a figure che fino a poco fa nella Chiesa venivano chiamate, senza molti eufemismi, concubine. Dai frammenti della lettera riportati sulla stampa risulta che le autrici hanno voluto presentare la devastante sofferenza a cui è soggetta una donna che vive con un prete la forte esperienza dell'innamoramento. Il loro obiettivo, scrivono al Papa, è stato porre con umiltà ai tuoi piedi la nostra sofferenza, affinché qualcosa possa cambiare non solo per noi, ma per il bene di tutta la Chiesa. Ecco la posta in gioco, il bene della Chiesa. L'attuale legge ecclesiastica, che lega obbligatoriamente il sacerdozio al celibato, favorisce il bene della Chiesa. Guardando ai 2 millenni del cattolicesimo, ritroviamo che nel primo il celibato dei preti non era obbligatorio. Fino al 1100 c'era chi lo sceglieva e chi no. Così scriveva il cardinale Bergoglio. Mentre lo divenne nel secondo in base a 2 motivi. Primo, la progressiva valutazione negativa della sessualità, il cui esercizio era ritenuto indegno per i ministri del sacro. Secondo, la possibilità per le gerarchie di controllare meglio uomini privi di famiglia e di conseguenti complicate questioni ereditarie. Così il prete cattolico del secondo millennio divenne sempre più simile al monaco. Si tratta però di 2 identità del tutto diverse. Un conto è il monaco, il cui voto di castità è costitutivo del codice genetico, perché vuole vivere solo con Dio. Come dice già il termine monaco dal greco monos, solo, solitario. Un conto è il ministro della Chiesa, che determina la sua vita nel servizio alla comunità. Il prete, diminutivo di presbitero, cioè più anziano, esiste in funzione della comunità di cui è chiamato a essere il più anziano, cioè colui che la guida in quanto dotato di maggiore saggezza ed esperienza di vita. Ora la questione è: la celibatizzazione forzata favorisce tale saggezza e tale esperienza? Quando i preti celibi parlano della famiglia, del sesso, dei figli e di tutti gli altri problemi della vita affettiva, di quale esperienza dispongono? Rispondo in base alla mia esperienza. Alcuni sacerdoti dispongono di moltissima esperienza, perché il celibato consente loro la conoscenza di molte famiglie. Altri di pochissima o nulla, perché il celibato li fa chiudere alle relazioni in una vita solitaria e fredda. Ne viene che il celibato ha valore positivo per alcuni, negativo per altri, e quindi deve essere lasciato, come nel primo millennio, alla libera scelta della coscienza. Vi è poi da sottolineare che la qualità della vita spirituale non per tutti dipende dall'astinenza sessuale e meno che mai dall'essere privo di famiglia. Basti pensare che quasi tutti gli apostoli erano sposati e che il Nuovo Testamento prevede esplicitamente il matrimonio dei presbiteri. Se poi guardiamo alla nostra epoca, vediamo che veri e propri giganti della fede come Pavel Florensky, Sergei Bulgakov, Karl Barth, Paul Tillich erano sposati. Se i nazisti non l'avessero impiccato, anche Dietrich Bonhoeffer si sarebbe sposato. E detti Illesum, una delle più radiose figure della mistica femminile contemporanea, ebbe una vita sessuale molto intensa. Anche Raymond Pannikkar, sacerdote cattolico tra i più grandi teologi del Novecento, si sposò civilmente senza che mai la Chiesa gli abbia tolto la funzione sacerdotale. Non è bene che l'uomo sia solo, dichiara Genesi 2:18. Gesù però parla di eunuchi che si sono resi tali per il regno dei cieli. La bimillenaria esperienza della Chiesa cattolica si è svolta tra queste 2 affermazioni bibliche, privilegiando per i preti ora l'una, ora l'altra. Penso però che nessuno possa sostenere che il primo millennio cristiano, privo di celibato obbligatorio, sia stato inferiore rispetto al secondo. Oggi, a terzo millennio iniziato, penso sia giunto il momento di integrare le esperienze dei 2 millenni precedenti e di far sì che quei preti che vivono storie d'amore clandestine, che sono molto di più di 26, possano avere la possibilità di uscire alla luce del sole, continuando a servire le comunità ecclesiali a cui hanno legato la vita. La loro anzianità non ne potrà che trarre beneficio. Vi sono poi le molte migliaia di preti che hanno lasciato il ministero per amore di una donna, ma che rimangono preti per tutta la vita, perché il sacramento è indelebile, e che potrebbero tornare a dedicare la vita alla missione presbiterale, segnati da tanta sofferta anzianità. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Vito Mancuso, Abolire il celibato per il bene della Chiesa, dalla Repubblica del 19 maggio. Putin è un pericolo per il mondo intero o solo per la sua regione? Quelli che pensano che Putin sia solo un pericolo locale sostengono che, a differenza del comunismo della fu Unione Sovietica, lui e il suo governo non dispongono di una dottrina in grado di attrarre il consenso al di là dei confini russi. Il presidente Obama ha sostenuto questa tesi e lo ha fatto con la solita sicurezza di sé. Mi auguro che abbia ragione. Ma la dottrina di Putin è l'anti-obamismo. E un rapido sguardo dovrebbe rivelarci che questa dottrina ha un appeal e una logica che vanno ben oltre la sola Russia. Il putinismo è una dottrina che non promette un'utopia né un futuro migliore. Quello che promette, affermandolo con i principi di una dittatura di ferro, è di salvare la Russia, e con la forza dell'esempio anche altri paesi, dalle catastrofi che derivano da un liberalismo mal concepito. La dottrina non è un radicalismo improvvisato, anche se può sembrare così. È un conservatorismo duro e puro, e i conservatori di tutto il mondo finiranno per adeguarsi. La paura di Putin per il suo paese è questa. Se l'Ucraina riuscisse a unirsi alla Polonia e agli altri stati vicini nel benedetto circolo di prosperità democratica, anche in Russia potrebbe fiorire un'aspirazione alla democrazia. Solo che la Russia finirebbe col somigliare all'Iraq più che alla Polonia, con l'economia che tornerebbe al disastro degli anni di Yeltsin e con la pace interna distrutta da folli conflitti etnici, come accadde alla Jugoslavia post Tito. Per questo Putin ha ordinato l'ALT e ha fatto schioccare la sua antica frusta russa. L'esempio di Putin avrà certamente un appeal globale. In Egitto, per esempio, che cosa pensa il generale Sisi della situazione mondiale? Il generale ascolta i suoi critici liberali che gli chiedono di restituire i diritti democratici ai fratelli musulmani e di consentire loro di competere in un'atmosfera libera e lealmente democratica. Lui ci riflette e dice: «Ma siete matti?» E ricorda che proprio con quel genere di libertà in vigore prima del colpo di stato militare della scorsa estate, i fratelli musulmani stavano rapidamente spalancando le porte della Jihad e l'Egitto era su una strada verso la distruzione ben peggiore del suo destino attuale. E al generale, inoltre, Putin sembra un uomo più saggio di Obama. E a Cuba? I fratelli Castro sanno bene che i liberali di tutto il mondo li invitano a una transizione democratica. Ma i Castro hanno sempre pensato che se i diritti umani arrivassero su una spiaggia cubana, sbarcherebbe in massa e tornerebbe al potere anche la colonia cubana di Miami. Non solo. I boss della cocaina spadroneggerebbero e nel destino di Cuba tornerebbe crimine, violenza, caos, rovina. E in Africa, in Siria e in molti altri paesi, che cosa pensano i dittatori e gli uomini forti? Anche loro credono che Putin abbia sacrificato gli ucraini alla sacra causa della gerarchia e della stabilità. Così Putin ha lanciato una sfida a noi liberali: spiegare in che modo la democrazia possa offrire sicurezza e non solo libertà. A questa domanda non si può rispondere con uno o due semplici slogan. Una risposta però è possibile. E il leader politico che sarà capace di fornire una risposta diventerà la persona più importante della nuova guerra fredda che abbiamo davanti, quella tra liberali e conservatori. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Paul Berman, Putinismo, dal numero di giugno del mensile Il. Sulle scelte di Putin si può essere o meno d'accordo, ma non si dovrebbe mai tacere sulle barbarie, commenta Luciano Tirinnanzi, che in un editoriale pubblicato sull'ultimo numero di Lookout, il mensile di politica estera di Panorama, interviene sul delicato argomento della guerra civile attualmente in atto in Ucraina. Non si specula sui morti di una guerra civile, perché in ogni conflitto gli orrori e le barbarie avvengono sempre da entrambe le parti. Ma disquisendo sulla crisi in Ucraina, non si può non osservare come la diplomazia occidentale si mostri strabica e taccia sotto una pressione mediatica unidirezionale e superficiale, russi cattivi, ucraini buoni, su alcuni fatti gravissimi che, inseriti in altri contesti, avrebbero suscitato indignazione generale e biasimo planetario. Stiamo parlando del cosiddetto rogo alla casa dei sindacati di Odessa del 2 maggio 2014, dove quasi una cinquantina di sostenitori filorussi, barricati nell'edificio, hanno perso la vita. La stampa occidentale ha derubricato la questione alla voce incidente e poche timide voci fuori dal coro non sono servite ad aprire gli occhi su una realtà che appare ben diversa. Quella cioè che racconta come invece estremisti e neonazisti abbiano fatto irruzione nell'edificio e dato sfogo a tutta la ferocia e barbarie di cui è capace l'uomo. Delitti così efferati e odiosi che non si possono tacere. Donne stuprate e arse vive. Una giovane incinta strangolata con il filo del telefono. Uomini giustiziati con un colpo alla testa, ai quali poi è stato bruciato il volto perché non venissero riconosciuti. Incendi posticci per dissimulare il massacro. Che senso ha tacere queste notizie? Perché ci indigniamo per i crimini di guerra siriani, maliani, nigeriani, centrafricani, sud-sudanesi, somali, yemeniti, iracheni? E non vogliamo parlare anche di quanto sta accadendo in Europa, in quell'Ucraina che molti di noi ben conoscono e che poteva essere parte dell'Europa unita. Che forse raccontare un episodio simile cambierebbe la nostra opinione sulla popolazione ucraina. Ammettere la violazione dei diritti umani in una situazione di guerra ferirebbe la nostra coscienza collettiva. O qualcuno teme che ci farebbe diventare automaticamente troppo amici della Russia. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Luciano Tirinnanzi, I silenzi colpevoli, da Lookout di maggio.